Buonasera, iniziamo la presentazione del libro Opera Buffa di Luciano Neri, che è uscito un mese fa ormai, appunto, della collana Ultra Chabooks, diretta da Michele Zaffarano per Piccole Edizioni, che ci ospita e che ringraziamo. E una collana che pubblica libri in traduzione, appunto, ma anche in lingua, come in questo caso, che afferiscono a quell'orizzonte estetico che siamo soliti definire delle scritture di ricerca. E, ecco, io leggendo e rileggendo questo libro di Luciano Neri, che giustamente, come osservava Massimiliano su Facebook, appunto, chi ne rilegge ne rilegge, sia nel senso che diciamo, è invogliato a leggere tutta la bibliografia dell'autore, ma sia pure che diciamo, il lettore è costretto e invogliato, diciamo, a rileggere il libro, perché il libro è diciamo, innesca appunto una complessità in chi legge, che funge da, per utilizzare un vecchio sintagma, da frusta appunto intellettuale per il lettore, no? Ecco, questo con tutta la valenza positiva che questo termine ha sostanzialmente. Ecco, dicevo, leggendo e rileggendo il libro ho pensato che è un libro da regalare a tutte quelle fastidiosissime persone che riassumono la richiesta di informazioni sul libro X nella domanda di che cosa parla. Ecco, io credo che questo libro faccia deflagrare appunto la domanda di che cosa parla, che è una domanda appunto che chiaramente è intenzionata spesso con finalità merceologiche, appunto, no? E perché è un libro che funziona in un determinato modo. Se è chiaro a tutti appunto che le scritture di ricerca, più che significare, ambiscono a funzionare, cioè ad avere una tendenza appunto in ottica beniaminiana, cioè a porsi non rispetto ai rapporti di produzione, ma all'interno dei rapporti di produzione, ad avere appunto un significato, diciamo, in quest'ottica qui. Ecco, dicevo, secondo me la funzione di questo libro, poi questa chiaramente è una mia interpretazione, è quella di spostare il marcatore politico da una dimensione contenutistica, come solitamente ci si aspetta, a una dimensione invece pragmatica, di, in termini antirappresentativi, laddove chiaramente la rappresentazione, come ben sappiamo, appunto, innesca, diciamo, alcune meccanismi di esercizio del potere, no? Se è vero che chi rappresenta, in un certo senso, per rappresentare deve porsi appunto in una dimensione di privilegio rispetto all'oggetto rappresentato. Ecco, quindi negare la rappresentazione significa affermare quello che afferma Marx appunto nell'introduzione della critica dell'economia politica, cioè che l'essere umano è un politicon, cioè animale sociale, visto teoricamente, non solo animale socievole, ma anche animale sociale, cioè come essere inscindibile da un contesto, dal contesto in cui effettivamente opera. E come ha operato appunto, secondo me, Luciano, per attivare questa funzione antirappresentativa? E in due modi, diciamo. Il primo modo lo vedo più dal basso, sostanzialmente, e riguarda diciamo, l'esposizione appunto del libro al rischio della rappresentazione, appunto, e della politicizzazione della rappresentazione, che è un meccanismo che ho rivisto anche appunto in altri libri, come già dicevo, a Luciano e a Massimiliano, appunto, presenti all'interno di questa collana. Penso appunto a quel filone, diciamo, legato alla questione di Tarnac, quindi a Pomodori di Nathalie Cantin, e anche appunto a Tarnac, un atto preparatore di Jean-Marie Glaes, che appunto fanno questo, nel senso, c'è la tentazione forte, la scelta appunto di un espediente contenutistico che tenta quasi appunto lo scrittore ad agire in modo rappresentativo, e c'è poi il sabotaggio di questa intenzione iniziale. E questo lo dico perché chiaramente noi capiamo appunto che il libro parla ha un contenuto, diciamo così, preciso, ma soltanto attraverso un apparato paratestuale appunto che ce lo indica, che ci introduce appunto all'argomento. E questo apparato paratestuale chiaramente è un apparato, diciamo, fotografico, sono le foto ad esempio di Alessandro Pavolini che anticipano e chiudono appunto il testo. Ma sono anche, ecco, le citazioni in esergo, appunto, no? Due citazioni da Pavolini che scrive alla moglie appunto dopo essere stato ferito in azione antipartigiana, dicendo, insomma, va tutto bene, eccetera, eccetera. È chiaro che questo tipo di argomento è un argomento che sarebbe facilmente rappresentabile, appunto, è facilmente politicizzabile nella rappresentazione. Ma noi lo capiamo, appunto, che parla di questo attraverso questa dimensione paratestuale. E quindi, diciamo, se il testo fosse epurato, diciamo, da questa dimensione paratestuale, noi faremmo veramente fatica, appunto, a capire che si sta parlando di questo. Nonostante, comunque, il testo, ecco, derivi da un meccanismo di cut-up, di montaggio, su materiale, appunto, storiografico, relazione all'argomento, giusto? No? Sì, sì. E questo è... secondo me è ecco, molto molto interessante. E anche un altro aspetto è relativo al fatto che, ad esempio, il testo non referenzializza immediatamente la circostanza storica di riferimento, piuttosto agisce attraverso delle funzioni sintattiche, cioè i personaggi, gli spazi sono ridotti appunto a funzioni sintattiche che operano all'interno della sintassi. Penso ad esempio appunto a dei personaggi come la guida, ecco, sotto cui è chiaramente facile appunto pensare o ovviamente alla figura di Pavolini, oppure altri personaggi, diciamo, che possiamo definire metateatrali, quindi le comparse, appunto, oppure gli aiutanti, no? Che fungono una sorta di canovaccio di un canovaccio, sembra quasi, no? C'è questa doppia dimensione metatestuale che mi interessa molto. E a livello, diciamo, di azione, mi sembra che ci sia una dialettica molto forte tra stasi e movimento che chiaramente riportata nella dimensione sintattica, cioè la sintassi che si pone come correlativo procedurale del contenuto, no? Laddove chiaramente gli spostamenti appunto della guerriglia tra partigiani appunto e nazifascisti, no? Prevedeva spostamenti, ritirate, eccetera, eccetera. Quindi è la sintassi che si incarica di portare avanti questo messaggio. E come lo fa? Lo fa attraverso quelli che sono, secondo me, i meccanismi procedurali tipici, diciamo, di Luciano, cioè da una parte meccanismi di ripetizione con variazione, e chiaramente apre appunto il testo a dei percorsi di significazione molteplici, no? In ottica anche, se vogliamo, deluziana, no? del rizoma che si apre, ecco, una sorta di corpus, in questo caso appunto di corpo testuale senza organi, appunto, no? Con le sue infinite possibilità di significazione. Poi un altro aspetto molto interessante è quello una sorta di epica delle microvarianti, appunto, presente all'interno del libro, cioè ci sono delle oscillazioni terminologiche a contatto che spesso sono, non so, tipologie sinonimiche oppure termini che si pongono in relazione di Polifrodo, penso appunto a variazioni temporali dei verbi, ad esempio, no? Che comunque non spostano granché, diciamo, a livello contenutistico, però creano dei piccoli terremoti all'interno della sintassi che producono straniamento, questo certamente. E il terzo meccanismo è un meccanismo appunto di metatestuale, che spesso è, se non sbaglio appunto, spesso è ribadito tra parentesi, no? Cioè c'è come questa osservazione appunto del testo dall'esterno che dà conto della matericità appunto dell'atto della scrittura, no? Cioè la scrittura è qualcosa che si costruisce, no? Non è qualcosa che viene da qualche altra parte, è qualcosa che uno fa appunto proprio con le proprie mani, appunto con il proprio corpo. Ecco, il secondo invece meccanismo, ma velocemente appunto per lasciare spazio alle letture, è quello invece che diciamo invece definire dall'alto, cioè riguarda una serie di soglie paratestuali che ingabbiano sostanzialmente il testo e che sono chiaramente il titolo, opera buffa, che rimanda chiaramente all'orizzonte della lirica in opposizione alla lirica seria, però ecco, mi piaceva appunto anche interpretare questo in termini anche qui metatestuali, cioè negazione della lirica come poesia, appunto, no? In questa dimensione dell'ambiguità terminologica, cioè sia lirica come diciamo dimensione drammaturgica appunto musicale, ma sia pure lirica come dimensione ecco poetica, e quindi in una intenzione di sabotaggio anche in questo senso. E poi la struttura all'interno è una struttura di tipo teatrale, chiaramente c'è l'impostazione appunto in cinque atti, gli intermezzi, eccetera, eccetera, poi il testo che effettivamente andiamo a leggere non è un testo teatrale, no? Quindi questo chiaramente a che cosa è finalizzato? A far creare nel lettore delle aspettative appunto sul genere letterario cui il testo in qualche modo si riferisce, e sono delle aspettative poi completamente appunto disattese, no? E questo favorisce uno spostamento dalla scrittura appunto come stile alla scrittura come scrittura, in termini chiaramente bartesiani, cioè laddove lo stile è individuale, mentre la scrittura è un atto appunto pragmatico che si inserisce all'interno di un contesto sociale e che ha una valenza precisa all'interno di quel contesto e che riguarda, appunto, come diceva Barthes, le grandi crisi della storia, come effettivamente in questo caso, appunto, perché di questo si parla. Sì. Lascerei appunto a questo punto la parola a Luciano. Per... Ti ringrazio. Ringrazio Samuele che effettivamente ha colto tanti aspetti di questo, insomma, di questa operazione testuale, diciamo, che sì, in effetti tocca un punto, come dire, è una sorta di storificazione di un evento, insomma, lo possiamo dire, insomma, possiamo rivelarlo un po' perché capisco la complessità. E, del testo, però sì, è il testo che parla degli ultimi momenti della vita di Mussolini in fuga verso, come dire, verso la Svizzera e come dire, in una colonna di automezzi comandata dal suo alter ego, diciamo, insomma, da quello che prende un po' in mano le operazioni, diciamo, di questa fuga disperata, che è Alessandro Pavolini. E, sì, il testo è incastonato in, come dire, in un testo che è, come dire, la leggenda di San Giorgio, che è un po', come dire, il santo guerriero, ecco, che incarna un po' il modello cristiano, agiografico, diciamo, del guerriero a cui alcuni di questi personaggi poi si rifanno effettivamente. E, vabbè, poi sui momenti compositivi ne possiamo parlare perché è un testo, come dire, cioè, più che da leggere è proprio effettivamente da guardare. Nel senso che da qualche tempo a questa parte immagino la scrittura proprio come immagine, più che come parola. E quindi cerco di scrivere, diciamo, immagini più che parole, non so come dire. E questo è un primo tentativo, diciamo, in questa direzione. E la prima parte del testo è tutto su, come dire, questi personaggi che si cercano un po'. Ho sfruttato anche degli schemi narrativi classici come la perdita nel bosco, la perdita nella selva, il ritrovamento, che effettivamente, proprio storicamente, chi ha tentato di ricostruire questa vicenda senza riuscirci, e, intendo storici anche divulgativi come Petacco, Biagi, Dichin, e non sono riusciti a capire poi effettivamente come siano andate le cose. Questo mi interessava molto perché mi dava proprio anche proprio dei momenti di, come dire, ricostruire un po' anche come resoconto e come commento, diciamo, questi fatti. Comunque inizio a leggere qualcosa. La prima parte è tutta sul fatto che c'è un appuntamento, però insomma questi personaggi che si devono incontrare in un punto effettivamente non si incontrano. La direzione è poco chiara, poco visibile, una serie di oggetti appesantiti che trasportano. Nei pressi di un lago ha le notizie di poter raggiungere la guida prima del confine. E non si può dire ancora a un limite del genere se si sono visti superati dalla guida stessa, se si sono visti al momento superati dalla stessa promessa, con le stesse probabilità di rivederla rispetto al tempo di ritornare indietro. Adesso identiche ai presunti fatti le direzioni, identici ai confini quelli che li vogliono raggiungere, alle notizie che si sono fermati nello stesso momento, le promesse alle stesse notizie di riunirsi nel legame e con le stesse probabilità di andare avanti o di ritornare indietro, che sarebbe una decisione sconsiderata, poco lungimirante e che sarebbe più sicuro o temendo di non farcela radunarsi al resto dei fuggiaschi, e forse in quel punto già si sono arresi, o con il rischio di restare intrappolati nel bosco. Già ringhio, ok. O forse vi era già arrivata a quest'ora da un'altra linea non conosciuta, secondaria e o parallela, in anticipo quando ancora l'alba non è spuntata, e il lago dopo che forse già erano entrati nella selva, per la parte della loro metà che inseguivano l'inno, e presto si erano avvicinati senza quella eufonia alla presenza del nome. Si era dileguata ancora per un ritardo, non sempre colmabile il ritardo in questi casi all'altra metà di loro, che nel bosco non si vede nessuno, per l'assenza che il gruppo prova dello stupore. Adesso che forse questo è un segno, il punto che forse non era quello della promessa, non era quello di riunirsi, il punto superato. Su un'altra linea, in anticipo o in ritardo, ancora non si sa quando, l'alba non è spuntata, costeggiando il lago, dopo che non si erano addentrati, né sarebbero nella selva loro dell'altra metà, che avevano inseguito l'inno da lontano, e si erano avvicinati alla presenza del nome. Si sarebbe presto dileguata, in un ritardo non comprensibile all'altra metà. O forse a quest'ora solo nel parallelismo non si vede, nella trama con l'altra metà, nessuno forse vi era già entrato, arrivato, uscito. Il gruppo che prova stupore adesso per l'assenza, l'eccesso di trasporto di una parte che gira vuoto, nella trama di quello che si nomina, ode, uno che si lamenta, le parole e le intenzioni che nessuno ascolta, ascolterebbe. Che forse è un segno adesso il punto di riunirsi, che non era proprio quello il punto superato dalla stessa promessa, non è quello il segno che si vede. Leggo ancora un paio di cose. Scena terza. In questo libro ci sono 5 atti e 2 intermezzi, e ci sono delle scene che nascono fondamentalmente dalla lettura episodica di quelle vicende appunto raccontate dagli storici. Quindi tendenzialmente è una meta rappresentazione. L'aria che giunge della presenza, con l'inno che appare e non appare, il motivo dell'aria che giunge avrebbe complicato oltremodo i piani che sono arrivati lo stesso a quel punto, la metà circa del primo gruppo e l'altra metà del secondo. Uno domanda della guida che si è rivelata fino a quel momento illusoria. Se invece avessero deciso di proseguire nel bosco con i doni e gli averi e con il resto che avanzano uno verso l'altro. A ogni tentativo di ritrovare quell'altro, prova di ritrovare lo stesso gruppo, questi che camminano, almeno per riconciliarsi adesso che sono sconfortati, adesso piuttosto smarriti. Scena sesta. Di solito non ci si riconcilia con le parole che nessuno ascolta, ascolterebbe fino in fondo di uno che sembra avvicinarli lungo la via più ripida, da una traiettoria a un certo punto indecisi che forse si arrestano di fronte a uno spartiacque. Per il crinale più impervio ai piedi del bosco, di solito in questi casi, prima dell'ultima salita, al tempo che ci è voluto, convenuti con i loro averi, con i doni da scambiare che adesso si muovono localizzati, in direzione di un appello, delle azioni ripercorse lungo la via che si ritiene più sicura, lungo la riva orientale del lago, idillio, nel dubbio ancora se dividersi per poi ritrovarsi, da qualche altra parte uno che si lamenta quelle parole, in questi casi che non ci si riconcilia alla guida lungo una stessa eco, che non è più riuscita a dominare le potenze del bosco, le potenze come si erano immaginate, quelle evocate da se stessa. Proprio dal titolo, delle alcune cose a cui accennava prima Samuele. Allora, l'opera buffa, io l'ho letta proprio nei termini, anche in questo poi in qualche modo indirizzato dalla scheda di presentazione scritta da Gianluca Picconi, il quale giustamente, proprio quasi in apertura se non ricordo, evoca il famosissimo e stracitatissimo Incipit del 18 Brumaio di Luigi Bonaparte di Marx. Quello che dice, cito più o meno a memoria, la storia si ripete, la prima volta c'è la tragedia, la seconda c'è la farsa. L'opera buffa io l'ho letta in questi termini, e poi un altro termine un po' più allegorico, di cui poi arrivo dopo. E in questo caso c'è, le due cose sono inscindibili, cioè il finale l'atto finale del se non del fascismo, ma quantomeno della vita di Mussolini e di Pavolini, che è in questo caso è il falso eroe, il, diciamo, l'aiutante, insomma, comunque ha un ruolo essenziale nella gestione degli ultimi momenti della vita di Mussolini, perché lui si incarica di proteggerlo, di portarlo in salvo in Svizzera, cosa che ovviamente non gli riesce. Dicevo, in quel momento là ci sono tutta una serie di elementi che sono tipici e tanto della tragedia quanto dell'opera buffa, comunque della farsa, e in qualche modo sono in parte inquadrati dalle due foto a cui accennava prima Samuele, che sono quella dell'inizio e quella della fine. Quella dell'inizio è la foto di Pavolini steso su un letto, è stato ferito nell'azione antipartigiana, ecco, sta mostrando, notate che ha probabilmente la camicia nera o comunque ha degli indumenti neri. Per contro, nella foto finale, che è la foto dei gerarchi fascisti catturati dai partigiani, Mussolini è stato portato via, vengono catturati i fascisti, Pavolini è quello con un impermeabile, qui non si vede quanto è bianco, però ha un impermeabile bianco, ma è bagnato perché è finito dentro il lago, l'hanno recuperato praticamente, era un parente bagnato. Quindi da una parte c'è in qualche modo il ferimento e rinascita dell'eroe, se stiamo in quella dimensione della leggenda aurea, eccetera, e dall'altra invece l'eroe che è vestito di bianco come San Giorgio, che però è a un passo dalla morte, sta per essere fucilato, ed è anche ferito, peraltro, per la seconda volta, ed è in quel momento lì, come dire, ha un elemento di smascheramento, perché appunto è tutto altro che una postura eroica in quel momento là, malgrado pare che le frasi finali che dicesse prima di essere catturato fossero quelle: dobbiamo morire da fascisti con armi in pugno, eccetera eccetera. Poi ci torniamo. Ora, qui tragedia e farsa appunto stanno insieme, perché c'è il travestimento, e poi c'è il travestimento ancora più noto, che è quello di Mussolini, che viene così alla buona travestito con un pastrano enorme di un soldato tedesco, nel tentativo appunto di camuffarlo in mezzo ad altri soldati tedeschi, ma viene comunque riconosciuto e sappiamo tutti come è andata. E questi sono già due elementi appunto che fanno parte della diciamo della tragedia, della farsa, che si incrociano. In più c'è un elemento che è quasi ovvio, cioè il fascismo è teatralissimo, cioè l'arte metateatralizzare, per passatevi il termine, il fascismo è quasi ovvio, nel senso che c'è un elemento di teatralità in tutta la storia del fascismo, e che si conclude appunto con un gesto teatrale che è il travestimento e il riconoscimento, cioè l'agnizione, cioè il fatto che qualcuno venga riconosciuto, è proprio nella sua storia, tant'è che mi veniva in mente che c'è quel film di Carlo Rizzani che si intitola Mussolini, ultimo atto, tanto per ribadire, no, l'elemento teatrale della storia. Ora, stringendo più sul testo, lo diceva prima lo stesso Luciano, dopo le foto ci sono i due testi presi dalla leggenda aurea di Acuto, Varaggini o da Varazze, che è appunto il più noto, il più grande bestseller, credo, forse del Medioevo e anche dopo, cioè il testo che codifica tutta l'iconografia dei santi più noti, in particolare quella di San Giorgio, cioè quella scena del drago. Ora, l'elemento che accomuna Mussolini, Pavolini e San Giorgio è, a parte il combattimento, eccetera, il fatto che si vedessero come guerrieri, ma è soprattutto la presenza di questo lago, che nella leggenda di San Giorgio è in Libia, nel caso di questo siamo a Dongo, quindi sulla Guigono. E questa leggenda, ne parlavamo l'altro giorno proprio con Samuele, ci è venuto in mente di leggere a tutti e due modi, cioè leggenda proprio nel senso in cui viene detto da Jacopo da Varaggio, cioè cose da leggere appunto, no? Storie, perché suppone che dietro ci sia un'altra parola che non compare, storie d'oro da leggere, ma leggenda anche come chiave di indicazione, cioè proprio letteralmente come quella che troviamo nelle carte geografiche, cioè in che modo adesso devi leggere questo testo, cioè quasi un'indicazione di lettura, no? cioè utilizzando, entrando nell'ottica della, della leggenda o della, della fiaba. Dopodiché comincia appunto tutto l'uso di elementi tipicamente fiabeschi, il bosco, la selva, il lago, la fuga, attenzione perché anche quello è un elemento tipico, perché li stanno fuggendo, tipico della, della fiaba o comunque, e poi elementi della mitologia, per esempio una delle pochissime pochissimi nomi propri che compaiono nel testo, il nome di Paolini non compare mai, tantomeno quello di Mussolini, però compare Tule, che è un punto di riferimento sì per della mitologia molto diffuso appunto nel mondo antico, poi in quello medievale, ma anche per certo fascismo, cioè Paolini è quello che va in Germania e ritorna, quindi carico di intenzioni, ricostituiamo il partito fascista repubblicano, si nazifica diciamo in qualche modo andando in Germania, perché la Tule è quella che poi ha a che vedere con il mito ariano, eccetera. Quindi c'è un elemento, c'è questo continuo giocare con questi elementi in una dimensione, cioè muovendo, cioè scusate, leggendo la storia, perché quella è un dato reale, attraverso la chiave della fiaba fondamentalmente, o della letteratura. Terzo elemento, che non ci è dato da loro due, è quell'indice finale, che è un testo a parte, è davvero, è un testo installativo, io credo straordinario, che è quasi l'esplicazione dell'uso di tutta una serie di motivi diegetici tipici della narratologia, quindi c'è l'apparizione dell'eroe, lo smascheramento del falso eroe, il transito degli oppositori, che sono chiaramente i partigiani in questo caso, eccetera, ed è dettagliatissimo, perché il tutto, se non ricordo male, sono 77 scene più 10 quadri, 10 per ognuno dei due, ce l'avevo scritto da qualche parte, per ognuno dei due intermezzi. Quindi per ognuna di queste scene e questi quadri c'è una spiegazione che in qualche modo dà quasi lo scheletro del testo, come se ci fosse una sorta di denudamento, cioè adesso vi faccio vedere come sta funzionando il testo, no? Che è l'ennesimo elemento metatestuale presente all'interno del testo. L'altra cosa, sempre sul piano della metatestualità, che è evidente e che si sentiva nella lettura di Luciano, è che compaiono quelle parole che tanto ode, inni, cioè sono quelle componimenti metrici che vengono evocati, idillio, a un certo punto si parla di epopea, insomma ce ne sono, e si parla, e qui siamo nel campo della lirica, appunto, classica. Poi si parla molto spesso di trama e di trame, che potrebbe ovviamente essere letto in termini come dire, complottistico, storici, eccetera, ma è ovviamente invece, rimandando a quell'indice finale, può essere letto invece come l'intrecciarsi di una serie di trame che portano a quel finale lì, che è lo smascheramento, il ferimento, la fucilazione, eccetera, eccetera. Paolini non molla mai, no? Fino in fondo, Mussolini, tant'è che viene giustamente, forse, cioè giustamente, la scena è orribile, però giustamente in qualche modo quasi una sorta di come se si concretizzasse qualche cosa che era implicito, viene appeso a testa in giù insieme a Mussolini a Piazza Loreto. Non era ovvio. Sì, quello è spiegato in un altro libro. Sì, si intitola Tiro la fune. E, dicevo, questi elementi metatestuali quindi rimandano continuamente a, da una parte la lirica e dall'altra il romanzo, insomma, che in qualche modo, cioè, è ovvio che figuriamoci quanto sarebbe di grande appeal scrivere un romanzo sulla vicenda di Paolini, perché poi lui a sua volta è un personaggio, insomma, anche per certi aspetti piuttosto interessante. Dicevo, l'ultima cosa sempre su questo, l'opera buffa a me sembra, leggendo il testo in una chiave allegorica, l'opera buffa sembra un po' l'Italia, non so, è come se non riuscissimo, cioè l'Italia non riuscisse a uscire dalla dimensione in cui la tragedia e la farsa stanno sempre insieme. Non c'è mai il tragico per davvero e non c'è mai la farsa per davvero, però questo probabilmente è un mio tema. Vediamo, praticamente antipatia per la commedia all'italiana, forse è questo. E, dicevo, visto che giustamente Luciano ora evocava Tiro la fune, cioè il testo invece parla proprio espressamente della, in quel caso della, sì, cioè espressamente è un'installazione esatto del bale basata su Piazzale Loreto, appunto sul fatto che devono tirare su questo cadavere, questo oggetto, questi cadaveri. E c'è invece qualche cosa che trovo in sintonia, in comune con Auto Reverse, perché lì c'era una sorta di andirivieni nel tempo, no? Ecco, qui vedo qualcosa di simile. Da una parte c'è una sorta di spazializzazione del tempo, cioè il tempo viene rappresentato nello spazio, perché c'è questo movimento continuo che loro fanno, perché c'è il famoso appuntamento mancato, quindi avanti, indietro, eccetera. E questo movimento, che tra l'altro Paolini fa, forse, cioè viene preso a mitragliate, perché forse ha sbagliato un movimento con il suo autoblindo. Però dicevo che il tempo viene in questo caso sottoposto alla stessa, allo stesso trattamento che ricevono quelle immagini, se per favore le rimostrate, perché partiamo dalla finale, che sono pixelate proprio all'inverosimile. È come se fosse pixelato o molecolarizzato proprio il tempo, quindi estremamente dilatato in ferma immagine, perché poi le scene io le ho lette anche in questi termini, cioè come dei fotogrammi, ora non so se cinematografici o semplicemente fotografici, di una scena, di una vicenda che insomma, che peraltro dura poi poche ore fondamentalmente, sì. Non dura moltissimo, tra scena del riconoscimento, fuga di Paolini, ferimento, cattura, eccetera. Insomma, parliamo di uno spazio di un po' di un paio di giorni, sì, esatto. Forse nemmeno. Quindi, e questo è interessante, invece sembra di assistere a un qualche cosa che forse anche perché c'è questo elemento di fiabesco, eccetera, la magia, le forze evocate che aveva appena detto lui, eccetera. Forse per questo dicevo quasi viene estremamente dilatato e polverizzato proprio il tempo. Io ti ringrazio per questa lettura approfondita e sono d'accordo con tante delle cose che, insomma, che hai detto, che avete detto. E, sì, allora, inni, le odi. Effettivamente questi personaggi, cioè proprio nella storia che è accaduta, e mentre andavano cercando, come dire, la guida per questo famoso appuntamento, effettivamente cantavano degli inni, beh, anche delle canzoni tipiche del periodo. E allora sì, tra l'altro c'è un libro, la fonte è stata proprio Canti di Salò. Ed è stato sì uno dei primi libri che ho consultato, diciamo, per ricostruire alcune cose, diciamo. E, a un certo punto cosa accade? Accade effettivamente che irrompono i partigiani e sbarrano la strada, e quindi questa colonna di automezzi è costretta a fermarsi. C'è un po' di... Nel frattempo si sono aggiunti, come dire, i tedeschi, e per appunto portare Mussolini in salvo. Poi, dopo che questa colonna di automezzi viene fermata dai partigiani, da lì in poi nessuno storico è riuscito effettivamente a ricostruire come siano andate le cose. C'è chi ipotizza che probabilmente i nazisti, in cambio della vita, abbiano così tradito Mussolini. Insomma, fatto sta che a un certo punto Mussolini sbotta e per, come dire, gli viene dato, insomma, questo pastrano di un soldato nazista morto, e c'è questa vestizione, questo cambio di uniforme, ed è un po' buffo perché questo, insomma, questo cappotto gli sta, è grandissimo proprio, gli sta, e anche l'elmo gli viene messo alla rovescia, diciamo, e quindi tutta questa parte è costruita sì con dei cut-up proprio, anche un po' casuali, presi da quella scena, diciamo. Allora, ok, ci sono. E si, è osservato intorno senza far parola. Agli altri confidenti nell'immobile situazione delicata dei tronchi a ostacolo della colonna, in mezzo alle rispettive guide e ai pochi esemplari umani, data la circostanza impartita agli uni e agli altri alle spalle dell'azione, dopo quella della promessa del legame sociale riproposto. E adesso dentro a una simile sequenza meno tutti i discorsi verso il raduno dell'ultimo periodo. Moderata e rallentata la colonna e poi tradotta che i confidenti degli uni avrebbero detto che forse non si sarebbero più ricongiunti con gli altri del primo gruppo dopo l'ultima dispersione, A per un ordine superiore, e non sapessero più a cosa credere per l'intonazione corale dei loro versi da intraprendere. Con le spalle al muro, adesso che si perdono nell'osservazione tra cielo e terra, nelle varie direzioni e indicazioni, per non riferirlo a nessuno direttamente quello che sta per accadere. Hanno appena collocato i tronchi e i massi per lo sbarramento a un senso unico, a un fuoricampo della scena precedentemente smosso, al passaggio di una colonna che poi si è e si sarebbe divisa, e lo hanno ripristinato, liberato, senza più sapere chi si fosse e si era nascosto nell'altra metà del gruppo della colonna che ha lasciato indietro l'altra con il sospetto di un piano ulteriore. Per le imprese che finiscono, sono finite già alcune in una selva al posto di altre, ad esempio non senza altri dubbi del genere a non volere la rinuncia a un ordine superiore a seguito di azioni che si perdono dopo ogni loro tentativo identico, che si separano. Per i nuovi aiutanti di poche parole che erano sbucati dalle spalle di una trama, a lungo termine di un periodo, che si può ripercorrere al pari dell'altro parallelo per come è andata adesso, adesso sta andando in uno spazio ristretto per quelli che erano, sono fuggiaschi. Fino al prossimo ostacolo, secondo un mandato oltre confine che prima o poi se ne frappone sempre uno di traverso, se non si raggira il verso dello sguardo a un piano alternativo, per il genere consueto che non siano la solita dispersione nel bosco e o il travestimento. Dove già molti si erano presentati alla sua portiera per chiedere ordini, più semplicemente per vedere, per curiosità, essere scambiati per un uomo, l'assunzione di un atteggiamento spregiudicato, la sicurezza in capo al mondo, l'indifeso che non tutti potevano proseguire, che l'aveva lasciata aperta e si trovava al posto di guida. E aveva risposto alle cose reali che taceva. Da molte ore si era seduto di traverso, verso la parete, fisso che il transito era consentito, solo a una parte, alla proposta della vestizione, senza degnare di uno sguardo, che si era incapaci di trovare soluzioni, la propria contrarietà dell'altro, gli altri osservavano che era impossibile. E aveva risposto che taceva, lo stratagemma rischioso di mutare aspetto, adesso che si poteva fidare, che è meglio restare insieme, di qualcosa avrebbe avuto ancora bisogno, che era stato un tentativo inutile, mentre inveiva, una lo supplicava, svolta che si configura, annuiva invece che era solito non muoversi, la scena con le forze esistenti, interessi particolari, potenze ostili, anche gli oggetti, effetti di disincanto, la forza del legame sociale promessa, bosco da lui evocato, rivisto alla sua immagine più credibile. Dovete decidervi con un gesto della mano, il più odiato dopo l'altro, le cose del reale alla rinfusa, non dovete andare, la forza che gli mancava e che era sopraggiunta, che l'avevano accolta, in due a tenerlo. E aveva ribadito che se ne sarebbe uscito con una frase rivelatrice, desiderava qualcuno che gli facesse compagnia, che dovete salvarvi e non scendere dalla vettura, il mutuo consenso, il dovere dell'esecutore alla propria sicurezza, che gli uomini si erano dispersi, che gli avevano riferito che erano pochi, il limite numerico invece che non esiste, che è per una donna, un'ultima frase sferzante, le cose del reale prima di allontanarsi, che gli gridavano di restare, l'indefesso alla prova delle lacrime, il dovere dell'assicurato alla difesa, indifesa, indifeso che si è levato in piedi. E aveva fatto notare che il pastrano era di un ufficiale, che non era invece il pastrano di uno trovato morto, che dei suoi fedeli alla rinfusa, che adesso era pronto, la situazione che era molto seria. Nessuno sparo l'avrebbe scosso, basta pantomime. Adesso esterno alla vettura, che c'era ben poco da dire, però nessuna recriminazione. L'importante era che sarebbe stato fiato sprecato a qualsiasi commento, che improvviso era rimasto con le amnesie, nelle pause del momento, della situazione delicata. Prima di allontanarsi, che questo sarebbe stato ringraziamento, qualcuno del suo genere l'avrebbe eliminato, che qualcuno aveva sbattuto la portiera, e cose di questo genere. Sì, volevo dire un paio di cose sul sabotaggio, diciamo, dei vari generi. All'inizio questo testo doveva intitolarsi Sui Generis. Era, sì, per in qualche modo mettere in serie, diciamo, quella vicenda. E, cioè, non sapevo proprio in che modo farlo, diciamo. Allora mi sono detto, cerco di farlo in nessun modo, non so come dire, e cerco di non adeguare a questa immagine, comunque l'immagine proprio dell'epos, del guerriero, cerco di togliere proprio il genere a cui una storia del genere sarebbe destinata. E quindi ho lavorato, senza poi lavorarci, su tantissimi piani. Come dire, ha una struttura da opera lirica, diciamo, ma non è chiaramente un'opera lirica. Ha un indice che ripercorre, come dire, praticamente quasi tutte le funzioni poi di prop della narratologia classica. E, tra l'altro, questa, devo dire, è stata un'idea di Michele Zaffarano e mi ha inchiodato lì finché, come dire, non siamo riusciti ad ottenere questa cosa. E, però chiaramente non è un romanzo, cioè, assolutamente. E, non è sicuramente un'opera di poesia, nel senso, come lo possiamo intendere, e, come viene inteso, forse. E quindi fondamentalmente ho cercato di ricostruire una storia di vita, di, come dire, cercando di togliere a questa vita, ormai alla fine, negli ultimi momenti appunto, di togliere proprio, come dire, tutto ciò che poteva identificarlo narrativamente. E quindi ho lavorato sia sugli aspetti mimetici, sia sugli aspetti diegetici che, come dire, che comunque si vengono un po' assorbiti uno dentro l'altro spesso. E poi, ripeto, ho lavorato come queste fonti storiche, ho lavorato su queste fonti cercando di ricostruire delle micro scene. E partendo così, anche un po' azzardando uno sguardo appunto pixelizzato, diciamo, e quindi lavorando proprio linguisticamente anche su delle parole, quindi ampliando queste parole con focalizzazioni particolari, con prospettive, utilizzando anche tecniche che magari non sono proprio della scrittura, diciamo, alcune sì, altre magari forse un po' più del cinema. E quindi, insomma, questo mi interessava, come dire, togliere un genere a, come dire, insomma, un personaggio così scomodo, diciamo, per la nostra storia. E quindi è stato un po' questo, ecco. Togliergli proprio tutti i generi disponibili alla fine. Poi sì, ci sono anche delle trame laterali, perché effettivamente diciamo che anche per rendere complesso un po' il discorso, nel senso che sì, sono ad esempio c'è un intermezzo che in realtà riguarda un personaggio secondario che prende tutto il malloppo e scappa verso la Svizzera con i partigiani che la inseguono e perde un po' tutto, perde, adesso lo trovo, quello volevo dire, perde un po', come dire, insomma, tutti questi averi, tutti questi, perde, che ne so, i franchi francesi, perde il denaro, perde i diamanti, si ritrova con queste borse, cerca di scappare e rimane impigliata, però riesce a salvarsi questo personaggio. C'è un momento appunto in cui cercano di capire cosa fare di, insomma, della guida, e i tedeschi, come dire, stanno un po' contrattando forse con i partigiani e non si capisce bene cosa, e quindi è nata questa parte sulle ipotesi di, le ipotesi narrative di un finale. A somma graduale di episodi e a enumerazione n volte da ripetere, per il finale che si sta compiendo, secondo notizie che si apprendono insieme a vicenda senza più limiti di tempo necessari, con la stessa velocità quasi immobile di chi vede la destinazione in faccia illusoria verso il paese di Bella Morte, ormai prossima nell'ultima parte di trama che intanto non si smaterializza. 1. Con gli altri aiutanti di poche parole sottovoce intorno e protettivi nei riguardi della guida in musonita e abulica, si scambiano le prime impressioni sul da farsi per uscire da una situazione che definire impaccio è un eufemismo, senza apparente via di uscita e in stasi da allora in avanti alla mancanza superiore di un ordine nella della pausa. 2. Far trattare per conto del gruppo esiguo i donatori che parlano le parole più ruvide, che sono ancora meno di quelle rimaste al momento che si contano, al movimento di labiali circospetti, e considerarne le intenzioni ambigue e leggibili da una certa distanza. 3. Trattare personalmente con i pochi esemplari umani degli oppositori a tratti invisibili e per altri versi inimmaginabili, per numero dissolvente nel bosco selva e per le estensioni del campo e del controcampo secondo due distinte inquadrature speculari di uno degli effetti più abusati nel linguaggio cinematografico. 4. E o farsi riconoscere parte rendevole dell'epopea maggiore di primo grado senza alcun testo consolatorio all'occorrenza nell'epilogo, accommiato, a mimesi di un compianto, almeno per non adeguarsi al genere di queste situazioni che di solito, come adesso, ci si lamenta. Volevo leggere l'intermezzo, magari, della signora che scappa con tutto, col bottino, col malloppo, insomma. Che è l'intermezzo. Che è l'intermezzo 2, mi sembra. Allora, signora. Andiamo avanti. Intermezzo secondo. 117. La taglia della guida di uno trovato, per una delle prime metamorfosi alla buona che uno non può ribadire alle spalle delle giovani, fino a far rotolare una nella polvere, con i dubbi che sarebbe stata ancora lei dopo che il tronco a sbarramento ne aveva disarmato, dispensato, compensato i pensieri ossessivi di seguirla alla guida fino allo spasimo dei travestimenti, con una cuffia da aviatore e una tuta azzurra da proletario, sotto un taglier di fronte ai pochi esemplari umani che si rivedono dal bosco sovrastante, però più armati, dopo giorni a mimetizzarsi per le imprese, per le azioni che spariscono e ritornano. Sì, sbagliato, non è questo. Allora, scusate, mi sono perso un mezzo. Perché non ci sono le pagine nell'indice, quindi. Cercasi intermezzo, eccolo qua. Forse questo. Ma il secondo? Ce ne sono due. Sì. Intermezzo, pagina 72, ce n'è uno. Ho trovato due. È il primo, intermezzo primo. Ah, ok, ok, l'ho trovato, l'ho trovato. Ok. Pagina 81. Allora, quadro ottavo, quadro nono. Ok, deve essere questo. Allora, con altri... Con altri oggetti preziosi appresso, non catalogabili, 35 kg di argenteria, 700 grammi d'oro, con il rischio continuo di perderli di vista, intesi a poteri del proprio scambio, talismani e amuleti, 1.350 monete d'oro e 166.000 lire che chiunque vorrebbe mantenere, possedere a governo della propria sorte. Un manufatto artefice di sé a regime di sopravvivenza che nel caso ognuno vorrebbe acquisire e mantenere, nell'area delimitata degli esemplari umani armati con la presenza. Quattro anelli con brillanti e 2.700 sterline dinanzi alla scelta intraprendente rispetto a un vuoto frenetico della fuga, in balia di potenze ostili riecheggiate, al contempo di nuovi sortilegi a ogni verso intrapreso. E poi, in effetti, dispersi al confine prima di arrivare dall'altra parte, 63.000 dollari e gli ultimi 17.000 franchi svizzeri nel numero di una sola che si era travestita del suo ingombrante bagaglio, che si era nascosta dietro alle tamerici con un numero incalcolabile di valigie, alla pena di un contenuto non appena che in quel tratto aveva ritenuto vitale rinunciare agli ultimissimi valori di 16 milioni di franchi francesi per il resto a venire. Finisco questo inseguimento. In aggiunta a ogni manufatto prezioso, l'osservazione micrologica senza poter stabilire che parte di quei valori avesse cambiato proprietario, nel movimento che assume la propria forma nell'insieme di cose disperse, in quelle ore in mezzo alla selva, in modo da parlare di tesoro in più punti alle spalle dell'azione che gli esemplari umani si erano subito rivolti alla caccia, all'odore. In una continua torsione su se stessa dello sguardo all'indietro che forse in cambio l'avevano lasciato, permesso che si travestisse per rinunciare a degli averi, per un effetto inatteso la trama adesso stregata al tipo di movimento di cui potrebbe godere tra poco, lontano ormai dalla guida, invece al pensiero che aveva accumulato dietro degli inseguitori. Più di un avere a renderla utile per un effetto di spiazzamento all'idea di aver superato il confine, scrutandone invece appena il limite, il valore del genere che non porta scritto sulla fronte quel che è, euforica al pensiero di una vita nuova adesso che è ancora nella selva da girarsi, a dire quel che io sono e posso sottovoce. Al momento prona alle spalle dell'altra azione di ricerca dell'epopea come l'impressione luminosa sul nervo ottico di una cosa propria che non si presenta più a essere oggetto. Io, mentre leggevo appunto il libro, pensavo tutto il tempo a due versi di Balestrini che sono non la riproduzione con gli occhi del linguaggio. Ecco, mi sembra che questo libro sia scritto veramente con gli occhi del linguaggio, cioè guardi in qualche modo alle scene della storia Balestrini attraverso appunto il linguaggio. Niente, lo dite soltanto questo alla fine della lettura, insomma, perché se è sentito questo, l'avevo letto appunto così, non so se è corretto o meno, però avevo detto questo. Io aggiungo solo una cosa. Vabbè, ovviamente come tutte le fiabe, le storie, c'è anche il tesoro, no? Appunto, l'avevo scordato per la ricordare. Ma c'era effettivamente, c'era il famoso oro di Dongo, sì, anche documenti, sì, c'è una lunga storia su questo. Allora, un'altra, l'ha letto prima, mi ha fatto pensare il fatto che un'altra delle pochissime parole che compaiono come nomi propri è Bella Morte. E Bella Morte in realtà sono due parole in italiano, lui la fa diventare una sola e la fa diventare un toponimo fondamentalmente, perché ed è una cosa interessante, perché è ovvio che Bella Morte evoca immediatamente il fascismo, no? Cioè non ci sarebbe nessun bisogno di trovare il testo di Paolino all'inizio o le immagini, perché è quello che cercano i fascisti, a parte il famoso libro di Carlo Mazzantini. Quindi è interessante proprio questo. E l'ultimissima cosa era, e poi e ha a che fare poi con questo, proprio con la Bella Morte, è quando lui diceva ho cercato di non usare nessun genere, perché comunque lo prendi quel materiale lì, o se sei, come dire, partecipe in qualche modo ti butti sul lirico o sull'epico, e se non sei partecipe quantomeno ci fai il romanzo, ma in qualche misura stai partecipando nello stesso modo se ci fai il romanzo, no? Perché stai comunque raffigurando e rappresentando. Ora, per dire appunto che quanto ci fosse di vocazione epica, a parte i canti, eccetera, Paolini era l'ideatore di una ultima posizione, di un'ultima fortificazione, che poi non andò assolutamente in porto, perché credo nemmeno Mussolini avesse preso sul serio, che doveva essere ridotto al pieno repubblicano, cioè un posto nella Valtellina in cui tutti i fascisti avrebbero dovuto resistere, cioè immaginate proprio una cosa da film, da epica appunto, che lui chiamava le Termopili del fascismo. Quindi capite, appunto, cioè lì giocare sull'epico era immediato, no? Quindi bisogna immediatamente deepicizzare, delicizzare, romanzizzare tutto questo materiale. Quindi l'unico trattamento possibile credo fosse proprio questo. Sì. No, però la domanda è perché proprio quella vicenda là? Ragazzi, che è il domandone. Ah, perché? Perché questa... proprio quella vicenda? Però beh, certo che nella storia d'Italia. Vabbè, insomma, se uno deve infierire, che infierisca con un bel carico da 90, non so come dire. No, un po' anche mi sono divertito onestamente a fare questa opera anche crudele, diciamo, di sezionamento, diciamo, di quelle vicende, perché posso dirlo, è un'opera che mi piace definire molto antifascista. E quindi, visto che siamo in un periodo storico così, mi sembrava... Tanto Paolini è un mito per i fascisti di oggi. Sì, perché sì. È quello che muore con le armi in mano. Sì. E quindi... E poi era una storia narrativamente con tante lacune. Questo forse è stato il primo motivo, diciamo, che mi ha indotto così ad approfondire questa scrittura. E poi sì, sicuramente, perché i tempi sono questi, e quindi quello che tra l'altro poi è anche una storia abbastanza rimossa, se andiamo a vedere, si parla poco di questo, di queste vicende storiche anche oggi, no? Saltano sui palchi, però, come dire, cioè sono stati i libri scurati, no? Sì, si parla poco di questa vicenda, dalla vicenda finale. Ha fatto due libri scurati, finalmente sono stati. Ma non su quello in particolare. Beh, molto sul fascismo. Beh, sul finale. Ho parlato molto. Sì, beh, del fascismo si è sempre parlato. Avete parlato molto di San Giorgio, no? Ma c'è un pezzo del testo che... Sì, allora tutto questo testo, allora in realtà il testo potrebbe ridursi alla prima leggenda e alla seconda, diciamo, perché sì, Jacopo da Varagine scrive la leggenda aurea, che sono agiografie di santi, diciamo, quindi come dire, riscrivendo le storie di tutti i santi della cristianità, in particolare tra questi anche quelle di San Giorgio, che poi erano, come dire, delle vicende, delle narrazioni anche, come dire, lontane, diciamo, nel tempo, però messe tutte insieme. E infatti nella Leggenda Aurea la storia di San Giorgio parte appunto, inizia con San Giorgio che va in Libia, nella città di Silena, c'è questo drago che appesta tutti, porta la morte e lui lo affronta, e poi da lì, e poi alla fine, cioè, c'è una seconda storia che non ricordo, e c'è una terza storia invece che vede questo santo vicino a Gerusalemme. Magari leggo un attimo, e queste due leggende, diciamo, queste due parti incastonano tutto il testo, diciamo, fanno da cornice. Certo, la cornice è quella dell'eroe cristiano che non ha paura, la geografia poi è fondamentalmente un testo di esaltazione delle gesta dei santi, e che erano, come dire, dei testi che circolavano molto nel Medioevo, perché... E mi interessava anche questo aspetto, perché erano testi, come dire, non individuali che rimanevano, come dire, ma erano testi condivisi dalla collettività. Quindi sì, c'era un accordo, diciamo, tra la comunità, diciamo, degli ascoltatori, dei cristiani. Che provo a leggere un attimo. Incorniciamo la cornice. Cappadoce di stirpe, questa è proprio una riscrittura, di alcune parti della leggenda. Cappadoce di stirpe giunse una volta nella provincia di Libia, nella città di Silena. Presso quella città vi era un lago vasto come il mare, nel quale si nascondeva un terribile drago. Questo appestava tutti con il suo fiato e più volte aveva messo in fuga il popolo che lo aveva affrontato con le armi. Perciò, per placare il suo furore, ogni giorno i cittadini erano costretti a offrirgli due pecore, altrimenti il drago avrebbe fatto eruzione ammorbando l'aria e seminando la morte. Quando erano ormai a corto di pecore, i cittadini presero la decisione di offrirne una sola e di aggiungervi un essere umano. Venivano estratte a sorte i figli e le figlie di tutti, senza alcuna eccezione. E ormai non vi erano quasi più figli e figlie in tutta la città, quando l'unica figlia del re venne estratta a sorte per essere consegnata al drago. Il re, disperato, supplicò: «Prendete il mio oro e il mio argento, anche la metà del mio regno, ma lasciatemi mia figlia e non fatela morire così». Il popolo gli rispose infuriato: «Tu stesso, re, hai emanato questo decreto. Ora tutti i nostri figli sono morti e tu vuoi salvare la tua? Se non farà tua figlia la stessa fine che hai decretato per gli altri, daremo alle fiamme la tua reggia». Al che il re iniziò a piangere: «Ahimè, che cosa farò di te? E che parole trovare, dato che non potrò più vedere le tue nozze?» Disse allora ai suoi sudditi: «Vi prego, concedetemi una proroga di 8 giorni per piangere mia figlia». I sudditi acconsentirono, ma alla fine degli 8 giorni si ripresentarono in preda al furore: «Perché mandi alla morte il tuo popolo per salvare tua figlia? Il soffio del drago ci sta uccidendo tutti». Allora il re, non potendo più salvarla, la rivestì di abiti regali, la abbracciò e le disse tra le lacrime: «Ahimè, speravo da te che degli eredi sarebbero cresciuti in un grembo regale, e ora invece stai per essere divorata da un drago. Speravo di invitare principi alle tue nozze, ornare di perle la reggia, e ora invece vai a essere divorata da un drago». E la salutò, baciandola: «Figlia mia, o se fossi morto prima di perderti in questo modo». Allora lei si gettò ai piedi del padre, chiedendo la sua benedizione, e poi, tra le lacrime, si avviò verso il lago. Passando di lì, la vide piangere un giovane e si chiede che cosa stesse accadendo. E questo giovane è Paolini. E per finire, alla fine di tutto, ormai sono quasi tutti, anzi sono tutti morti. Mentre i cristiani andavano ad assediare Gerusalemme, si legge poi, un bellissimo giovane apparve a un sacerdote. Disse di essere a capo delle armate del nord e avvertì i presenti che se i cristiani avessero condotto a Gerusalemme la sua guida, che aveva dominato già una volta le potenze del bosco da lui stesso evocate, egli avrebbe preso parte all'assedio. Mentre i cristiani non osavano adesso dare scalata alle mura della città, per tornare ai fatti, il giovane apparve di nuovo rivestito di una bianca armatura su cui risplendeva una croce rossa e fece segno ai combattenti di seguirlo senza timore fino alla vittoria. E così finisce. Domande? Questa storia di Pavolini ha, come dire, Pavolini trasformato in Perseo, perché San Giorgio è Perseo, grazie, no? Sì. È la storia, il mito di Perseo. Sì, sì. Manca Medusa, ecco, potevi inserire, perché è abbastanza metaletterario. Sì, la sì. Medusa di cui devi usare la testa mozzata, perché se la guardi nel viso ti trasforma in sale, no? Allora sì. Lui, senza guardarla, la uccide di spalle, guardandola in uno specchio, in modo che sì, la sì. guarda direttamente, e sì. poi usa la testa di Medusa e a Firenze, davanti a Palazzo della Signoria, c'è la statua appunto del Perseo con la Medusa. Potevi pavolinizzare. Una cosa interessante su Pavolini è che Pavolini ha una doppia vita, tipo James Misterite, no? Cioè lui inizialmente è un golden boy. Ma lo è sempre stato, no? Fino alla fine, eh? No, fino quasi alla fine. È un cianista, è uno del quando Ciano è ministro degli esteri, sì, e fa, diciamo, la trame simile a quelle che poi eserciterà Grandi in modo efficace, cioè anche suocero, una fronda all'interno, perché purtroppo il fascismo, al contrario del nazismo, era abbastanza multipartitico. C'era di tutto nel fascismo, c'erano i monarchici, gli antimonarchici, sì. i clericali, gli anticlericali, era una sorta, e Mussolini giocava su questo, facendo da, sì, sì, sì, certo. da mediatore, senza mai uccidere nessuna delle no, allontanava, diciamo che sì, sì, sì. era tutto, ogni corrente veniva, e c'era anche, come dire, l'ala, come direbbero i russi, Golubovi, azzurra, cioè omosessuale, perché i Golden Boy erano questo poi alla fine. E questo è il primo Pavolini. Il secondo Pavolini è quello che diventa, invece, appunto, va in Germania a farsi un bagno di solerzia sadica e diventa l'autore del processo di Verona, cioè quello certo, che più di sì, tutti sì. vuole la morte di Ciano. Certo. E quindi e questo secondo Pavolini è veramente... è Mr. Hyde. Beh, anche scrittore. Perché è il contrario del primo. Non ho mai letto nulla, però. Però sì. Anche un personaggio strano. Anche del fascismo fiorentino, che non era particolarmente forte, perché era molto più forte il fascismo pisano di Buffarini Guidi, sì. o il fascismo ferrarese, Farinacci, eccetera. Forse il migliore esponente del fascismo fiorentino era Malaparte, ma Malaparte con la technique du coup d'état si guadagnò addirittura la prigione, cioè ebbe grandi periodi di odio e amore con il regime, e poi alla fine sposò il maoismo, e pensando a Teofilo del Ventura è interessante come, perché i totalitarismi si assomigliano tutti alla fine, hanno le stesse riti, la stessa chiesa, i stessi sacerdozi, basta cambiare i simboli. E poi io mi ricordo quanto assomigliava Venceremos a vincere, vincere, vincere, cioè alla fine era molto simile. Bene, grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.